Capitolo 28. Venezia. 18 ottobre 1548. Si sono fatti precedere da una lettera. È per questo che siamo qui, al molo, lo sguardo accanito sul canale della Giudecca, da dove dovrebbero spuntare. Bernardo Miquez passeggia su e giù. Joao è fermo come una statua, elegantissimo come sempre, guanti di cuoio infilati in cintura e larghe maniche della giubba che svolazzano al vento. Demetra mi ha fatto una sciarpa di lana per quest'autunno gelido. Devo essergliene grato, perché il collo mi gioca brutti scherzi da qualche tempo. Osservo i barconi che sfilano lenti verso gli attracchi e svuotano il loro carico umano variopinto e bizzarro. Per il Doge San Marco! Trasalisco davanti alla voce squillante di un gigantesco merlo nero trasportato in una gabbia. Joao ride forte all'espressione della mia faccia. Uccelli parlanti, compare. Questa città non finirà mai di stupire. Bernardo si sporge avanti fino al bordo della banchina, rischiando quasi di perdere l'equilibrio. Eccoli! Dove? Tengo per me il fatto che la vista non è più acuta come una volta. Laggiù! Sono sbucati adesso! Fingo di riconoscere l'imbarcazione, che è ancora una macchia scura. Sono proprio loro? Ma certo! Guarda Sebastiano! Per Mosè e tutti i profeti! Ecco la perna! Ce l'ha fatta! Duarte, ce l'ha fatta! Joao si concede un gesto d'esultanza. Bastardi schifosi, infami, pezzi di merda. Ancora un po' ci restavo là sotto, Cristo, incrostato dai funghi e dal muschio, vaffanculo! Prende fiato, ha ancora il terrore negli occhi. Assassini, è quello che sono! Roba da pazzi, Ludovico, amico mio! C'erano topi che parevano cuccioli di cane, capito? Non puoi crederlo! Dovresti averli visti, grandi così, bastardi, un mese dentro quella latina. Prigione la chiamano, se li impalassero i turchi tutti quanti, bastardi. Guarda Ludovico, grandi così i topi. E dei guardioni che sembravano i mostri dell'Apocalisse. Tieni un uomo in quelle segrete per un anno e ti confesserà qualunque cosa, anche che... Bah, e poi scrivono tutto, tutto. Non si perdono una parola. C'è sempre uno scribacchino del cazzo che scrive quello che dici. Veloce, scrive velocissimo, senza alzare mai lo sguardo dal foglio. Tu fai uno starnuto e quello lo scrive, capito? I pochi capelli sono scompigliati sulla testa. Occhiaie profonde e mandibole che vorrebbero accanirsi sulla bistecca che Demetra gli ha servito, se non fossero impegnate da quel torrente in piena. Ingoia finalmente il primo boccone e sembra recuperare la lucidità necessaria. Alza appena gli occhi dal piatto. Hanno incastrato qualcun altro? Infante, a Napoli. Uno sbuffo. E non è la notizia peggiore. Gli occhietti di Perna mi scrutano apprensivi. Chi ancora? Benedetto Fontanini. Il libraio si passa le mani sulla testa a pettinare i pochi capelli rimasti. Santo cielo, siamo nella merda. L'hanno imprigionato nel monastero di Santa Giustina, a Padova. L'accusa è di essere l'autore del beneficio di Cristo. Rischia di marcire là dentro per sempre. Perna risolleva la testa. Da adesso c'è da stare davvero attenti. Ci passa in rassegna tutti e tre. Tutti quanti! Si sofferma su Joao. E tu, non credere di essere tanto più al sicuro di noi, socio, che se quelli si mettono a fare sul serio, son cazzi per tutti. Qui a Venezia per adesso siamo al sicuro, ma ci hanno dato un bel avvertimento. Che vuoi dire? Gli riempio il bicchiere di vino. Hanno capito, sanno chi siamo, chi c'è di mezzo. Prima hanno fermato Joao, poi me, quel poveretto d'infante. Poi vanno a pescare Benedetto da Mantova. Mastica e deglutisce. Duarte ci guarda tutti quanti. Di chi stiamo parlando? La forchetta di Perna cade sul piatto. Silenzio. Il caratello è chiuso. Siamo soli. Tre sefarditi e due miscredenti inveterati seduti attorno a un tavolo a complottare. La gioia di ogni inquisitore. Perna si acquatta come un gatto. Stiamo parlando del cazzo durissimo, signori, sì, sua eminenza, cazzo durissima Giovanni Pietro Carafa. Parliamo degli zelanti, di quelli che vorrebbero farsi un ciondolo con le palle di Reginald Pole e dei suoi amici. Gran bastardi, loro e loro sgherri. Ancora non li hanno sguinzagliati in giro, ma non tarderanno a farlo, vedrete. Un'occhiata a Joao. E quelli, socio, non li compri, capito? Incorruttibili bastardi. Lo interrompo. Né Milano, né Napoli, tantomeno Venezia, lasceranno che l'Inquisizione di Roma metta il naso nei loro affari. Affari, questa è la parola giusta. Per adesso non hanno alcuna convenienza a lasciargli campo libero, hai ragione. Ma tutto dipende da chi salirà al soglio pontificio, da chi stabilirà le regole, dopo che Paolo III avrà tirato le cuoia. E comunque, per evitare le ingerenze di Roma, i veneziani potrebbero pensare di regolare i propri conti con noi altri senza aspettare Carafa e i suoi amici. Inghiotte il boccone. Che schifo. Quando ripenso a quella latrina, mi passa la voglia di mangiare.